Voices pass senza compagnia. Essa che la che nos guia. Che poi nos elle fa cerchis sempre noi te dia. Nos guarda perché segniamos fis che sa felonia. Non nos mostrar che mais de nos enteira. A sagrada mercê, pois nossa fraqueza vê, e nossa folia com ousadia, che non desvia da buona via, che levaria nos su de via, u nos daria sempre allegria, che non farria né menguaria, mas cresceria e poggiaria e compriria e si maria. Si può da virgen sotterra guardar, o se come in cima della connomar. Ed est un miragre per quenta prendi, vos contare ora grande che oi, che Santa Maria fez e credami, che maior d'este non vos posso contar. Si può da virgen sotterra guardar, o se un come in cima della o no mar. Virgen gloriosa. Oh.